Benvenuti. Benvenuti Testa Occrocini. Esatto, amici e amiche di Radio Cage. Oggi sì. È 26 aprile ed è un giovedì. Beh, chiaramente è arrivata l'estate, si può dire, no? È arrivato il caldo. No, non diciamolo che porta male. Ah, perché? Sì. Ma io sono contento, se puoi dire. Hai visto la marmotta? Bravo, hai detto capito, bene capito. Allora, con noi qui in studio c'è Fede alla console, come sempre, qui per la regia, per curare la regia della trasmissione. E poi c'è un ospite grandioso che è venuto per stare con noi direttamente da Berlino. Sì. Ah, perbacco. No. È il nostro il nostro ascoltatore alienofilo agnostico e affezionato. Quindi lo sentite dalla sua risata, eccolo. Buonasera a tutti, sono Jacopo e sono contento di essere ospite di questa trasmissione. Ecco, si vede. Il tipico accento berlinese di Jacopo. Allora, quanta Sturmundra. Proprio a fiumi. Jacopo Davassi è appunto un nostro affezionato ascoltatore, ma è anche tante altre cose, no? Come spesso capita agli ospiti di Testa Croce Show, tra cui è un search engine optimizator, giusto? Ho detto bene? Sì. Di Groupon, quindi c'è uno spammatore. In pratica sì, quindi perché è più, insomma, terra terra. Ecco, quindi se volete scriverci improperi, insulti, potete farlo durante questa puntata all'email testacroceshow@gmail.com o su Skype a Testa Croce Show. Ecco. E no, vabbè, a parte gli scherzi, parleremo di vari argomenti. Oggi faremo una puntata un po' anomala, giusto? Sì, un po' medley di tutto. Sì. Un pupurri. Esatto. Beh, come sempre. Bene, abbiamo ricordato i contatti. Ah, ricordiamo anche il blog testacroceshow.blogspot.com con le puntate fino alla 20. Ascoltatele, fateci sapere cosa ne pensate, commentate i 1000 post che ci sono sul blog. Bene, proprio 1000. Va bene, direi cominciamo, che passiamo all'almanacco. Cominciamo egregiamente con l'almanacco e con il solito jingle di Guillaume de Macho, che ormai è parte della sigla questo. Eccolo, sentiamo. Oggi è 26 aprile, si celebrano San Marcellino Papa, San Basileo di Amasea, San Pascasio Radberto, San Primitivo, San Ricario di Celles e Sant'Anacleto Papa. Che buono il Primitivo, eh? Vero? Ottimo vino. Beh, non penso che... No. Non si tratta del vino, si tratta secondo di un... me è il fondatore, è il fondatore del vino. Sì, potente. Dunque, ricordiamo invece la triste scomparsa nel 1731 di Daniel Defoe, autore di Robinson Crusoe, nel 1969 di Morihei Ueshiba, fondatore dell'Aikido, e di Masutatsu Oyama, fondatore delle Kyokushin Karate. Che roba, non si sono uccisi a vicenda. No, è un'arte marziale, è una forma di karate. Non si sono uccisi a vicenda, appunto, perché uno moriva nel 69 e l'altro nel 94. Però per l'appunto magari si sono feriti gravemente, però. Probabilmente. E celebriamo la nascita di Marco Aurelio, imperatore di Roma, di Maometto secondo la setta Shia, secondo altre invece fonti, il 20 aprile. Comunque è passato da poco, quindi facciamo gli auguri lo stesso a Maometto. E poi William Shakespeare, non ha bisogno di presentazioni. David Hume, filosofo. Delacroix, il pittore. Sono nati tutti oggi questi? Sì. Pare di sì. Sì, qualcuno, molti sono morti, anzi tutti questi che ho detto finora sono anche morti, compreso anche Wittgenstein, altro filosofo austriaco. E uno dei primi cosmonauti, Vitaly Andreevich Grishenko. Roger Taylor, il... Shevchenko? No, non è Shevchenko, è Grishenko. Poi Roger Taylor, a cui facciamo gli auguri, è il batterista dei Duran Duran, fra gli altri gruppi, anche degli Angry Like the Wolf. E poi nel 63 nasceva Jet Li, sempre un altro attore, ma anche praticante di arti marziali, uno Shaolin se non sbaglio. E rifacciamo gli auguri. Auguri anche a Giorgio Moroder, che è un discografico e musicista, a Giorgia, tutti Giorgia, i musicisti che nascono oggi, Giorgia. Giacomo Poretti di Aldo Giovanni e Giacomo e Neri Parenti. Tra l'altro me ne hai rubati tantissimi e non avevo avuto notizie di Shakespeare, strano. Ma chissà se forse qualcosa, è discussa anche la, insomma, la sua esistenza storica. Sì. La sua identità, comunque sì. Ecco, no, volevo ricordare Marco Aurelio, che è un imperatore ma anche filosofo stoico, sì, no? Sì. Con alcune parole tratte dai pensieri, l'unica opera che lui ha scritto e che riassumono bene, diciamo, lo stoicismo di Marco Aurelio, la sua particolare lettura dello stoicismo. Allora, tutte le cose sono reciprocamente intrecciate, il loro legame è sacro e quasi nessuna cosa è estranea ad un'altra. Si trovano infatti armonicamente ordinate e insieme danno ordine e bellezza al medesimo mondo, e quest'ultimo è unico, formato da tutte le componenti. Unico è il Dio che le attraversa tutte quante, unica la sostanza e unica la legge, la ragione comune a tutti i viventi intelligenti, unica la verità, se è vero che una sola è la perfezione dei viventi, aventi medesima natura e partecipanti alla medesima ragione. Qui con ragione si intende il logos, quindi proprio, diciamo, il principio che impregna tutto l'universo. Cosa ne pensa Jacopo di dello stoicismo? Forse. Interessantissimo, veramente una cosa eccezionale, però volevo ricollegarmi a una cosa che dicevate prima su Shakespeare. Sì. Dicevate che si addirittura si mette in discussione l'esistenza storica di Shakespeare. Questo è un concetto molto interessante che si lega poi al tema della puntata di oggi, che lo stabilisci tu qual è il tema. Non ne sapevamo niente, va bene, parleremo di Shakespeare. Di Shakespeare. No, lo stoicismo sinceramente non ho preparato. No, non ha fatto il cuore. Ma diciamo perché è qui, se no. È qui perché passava da giù, l'abbiamo visto, ci ha salutato. No, è venuto qui da Berlino apposta per la puntata, giusto, per la puntata di oggi, e perché appunto Jacopo era un appassionato di fine del mondo, questa è una sua stessa autodefinizione, escatologia e anche di tematiche relative appunto a paranormale, sì, no? Alieni, ufologia, perché no? E però ultimamente appunto ha rivisto le sue posizioni e si è aderito all'agnosticismo, no? Ma all'agnosticismo solo rispetto a queste tematiche oppure proprio come visione generale del mondo? Ma ce lo dirà dopo ma ce lo dirà dopo il primo pezzo, sì, Manteniamo cospettone, manteniamo alta la suspense. Sì, giusto e visto che abbiamo parlato di anche di interesse per l'alienologia, sentiamo questo pezzo che è dell'Incubus dall'album del 99 Make Yourself, e si intitola Stellar, quindi le stelle, esattamente Cosmo. In tema, bene, ascoltiamo. Risiamo in onda e oggi puntata anomala, appunto perché parliamo di terrapiattisti, di complottisti e di agnostici. Sì, certo, abbiamo Jacopo per parlare di questi argomenti. Dunque, agnosticismo, alieni, esatto, cose un po' pericolose. Io ricordo agli ascoltatori di aver ricevuto da poco un dépliant di un convegno dalle conchiglie, quindi ci stanno osservando. Sì, quindi dobbiamo stare molto attenti a parlare di queste cose, ma procediamo. No. Con cosa? Con la risposta, certo, di certo, infatti, quindi infatti. Ti avevo chiesto se appunto la tua recente adesione all'agnosticismo riguarda proprio una visione del mondo generale o soltanto appunto le questioni riguardanti alieni, complotti e cose del genere. Fondamentalmente riguarda soltanto la religione e tutto quello che riguarda quindi la religione. Sì, insomma, il concetto di agnosticismo penso che insomma tutti un pochino lo conoscano. Ma chiariamolo, si nasce come definizione in contrapposizione con lo gnosticismo, che è questa corrente, no, un po' cristiana. Proprio una corrente di quelle cristiana che afferma che si può. No, è precedente in realtà al cristianesimo. Sì. È leggermente precedente. Vabbè, comunque non voglio interrompere. Quindi esatto. Lo so e non lo posso sapere. No, smentisci dall'alto della tua agnosticità. Comunque si fa. No, questa corrente cristiana, comunque anche cristiana, che afferma che si può conoscere il divino mediante la esperienza diretta, mentre l'agnosticismo si pone proprio in contrapposizione affermando che invece non si può, semplicemente perché è difficile, non ci sono i mezzi, è complicato. E poi perché? È una perdita di tempo fondamentalmente. No. Infatti, come si legge dal testo sacro Wikipedia, l'agnosticismo è un atteggiamento concettuale con cui si sospende il giudizio rispetto a un problema, proprio perché appunto considerato impossibile da raggiungere come... Sì, beh, ecco, quindi sì, una sospensione, un'epoca, sì, una poria, esatto. Sì, tiriamo fuori tutte queste Lorenzo Comignali perle e porci. Esatto. Sì, ma io lo redargui subito, sì, perché infatti, i nostri ascoltatori sono selezionatissimi. Non sono affatto dei sui. Esatto, appunto dei sui. Noi abbiamo già toccato l'argomento del agnosticismo nella sesta puntata quando c'era qui la celebrante laica e il socio dell'Unione atei e agnostici razionalisti, perché modernamente agnosticismo significa non prendere posizione appunto su, in particolare sull'aspetto religioso, quindi sugli dèi eccetera, o perché non se ne hanno gli strumenti o perché non si ritiene utile o interessante, insomma, necessario eccetera. E quindi però appunto rispetto agli argomenti che possono essere legati ai complottismi, si apre una nuova frontiera di agnosticismo, così come appunto, per esempio, ne sparo una: la presenza degli alieni sulla Terra, no? Sul nostro pianeta. Molti dicono che sono presenti, ma è una cosa che non si può, no? Che non si può facilmente accertare. Gli studi molto interessanti di Corrado Malanga che si trovano su internet. Ecco, so che segui questa. Ma le ho lette, come del resto ho letto tanta roba che si trova su internet in giro. Però fondamentalmente uno, dopo che legge tutte queste cose, si chiede un po': ma è come? Bello, ecco appunto. Uno si chiede un po' come, no? Uno può veramente verificare quelle cose che dicono e che tenono fuori. E la risposta è che non si può. Ognuno c'ha il suo mezzo, no? Se uno legge Malanga, se ascolta le conferenze, lui ti tira fuori tante prove, però insomma, non so, è difficile da credere tutta quella roba lì, è fondamentalmente un po'... Ma quindi sei diventato agnostico anche su questo? Sono agnostico totale. Su tutto, ecco. Sì. Però okay, il tuo percorso... Anche se dovessi i calzini la mattina, mi trovo, non lo so, dicendo... So di non sapere, no? Come diceva quel tale. Ma... E anche alla luce di un altro concetto che... una teoria molto interessante che ho conosciuto pochi mesi fa, che è quella dei terrapiattisti, ecco, di cui vogliamo parlare. Sì, si aprirà una parentesi poi su questo. Però come sei arrivato? Hai avuto un percorso molto variegato, no? Noi, sì, insomma, sì, ne abbiamo parlato fuori onda, diciamo così. Ma fondamentalmente il mio percorso personale, sì, insomma, è iniziato da cristianesimo, poi tutti i tipi, proto-cristianesimo, per poi passare a questa musichetta, per passare un po', insomma, a tutte queste correnti un po' strane, più o meno New Age, che ricoprono argomenti. Monaci, ecco, quindi ti mettevi strana nella posizione. Beh, del loto, monaci, no? Queste cose roba si... strana, non esageriamo. No, ma meditazione, ecco appunto, si mette una a proposito scusa se ti interrompo, ma se ti interessa, in onore delle vecchie, insomma, delle tue vecchie credenze, tue vecchie passioni, devi sapere che ci sarà in esposizione dal 25 al 30 aprile a Hong Kong un frammento di cranio che si ritiene essere appartenuto ai resti originali del Buddha. È la prima volta che questa reliquia esce dalla Cina, fra l'altro, anche se in realtà non ne esce più dalla Cina, perché Hong Kong è tornato a essere parte della Cina, però sì, comunque la Cina ha inviato una reliquia per celebrare il 15° anniversario della riannessione di Hong Kong, appunto, ha detto il venerabile Yin Chi, segretario generale dell'associazione buddista di Hong Kong. La mostra coincide fra l'altro col forum mondiale del buddismo e il compleanno del Buddha, celebrato a Hong Kong il 26 aprile. Quindi facciamo gli auguri al Buddha, che però ovviamente anche lì ha mille date di nascita, sì, quindi evidentemente a seconda è solo della quella... tradizione, no? Esatto, quindi questo è solo uno. Ne parlammo anche nella puntata prenatalizia, ricordi, delle varie Buddha. Date di nascita, ah, sì, sì. Dei patriarchi, dei profeti, sì. E dunque conclude il Yin Chi: il governo cinese ci inviò un dente del Buddha nel 99 e una falange nel 2004, ma è la prima volta che l'osso parietale viene inviato per essere pubblicamente adorato. Quindi insomma, scusa, questo mi ricorda un po' quando rapiscono una persona e poi te la rimandano a pezzetti, cioè un po' tetra come cosa. Anche che io ho trovato un po' grottesca, sì, come sì, affermazione. Sì. Vabbè, comunque tutto delle reliquie ce l'abbiamo anche nella tradizione. Ah, no, anzi, per carità, però appunto. Bene, continua. Facciamo... pure con le tue sciocchezze. Scusa. No, scusa, io su questo darei la parola a un altro po' di musica, visto che voglio difendere il nostro ospite. Non sono affatto sciocchezze e ci ascoltiamo un brano che per il sottoscritto è uno dei brani maggiori della storia del rock. Loro sono gli Hawkwind, il loro album di debutto del 1970. 1970, progressive di altro tema. Sono di altro tema, sono attivi ancora ora. Però nel loro primo album, intitolato proprio Hawkwind, chi lo metteva sul giradischi moriva. Partiva questo primo brano che si intitola Hurry On Sundown. E secondo me, appunto, è uno dei più grandi pezzi rock della storia. Ce lo ascoltiamo. Eccoci in onda dopo questa sparata psichedelica pazzesca. Sì, sì, fantastico pezzo. Ci sta veramente ascoltando Francesco, il nostro caro affezionato ascoltatore. No, non salutiamolo. Non salutiamo, dai. Non però è lui che saluta Jacopo, quindi ti saluta. Saluti, Francesco. sono quei linguaggi in codice da alienini. Sì, sì, cose un po' in cui è meglio non entrare. Infatti. Dunque, parlavamo di reliquie poco prima della pausa. Ecco un'altra cosa a fine, non è proprio una reliquia, ma un reperto. Dal New York Times della settimana scorsa vi riporto questa notizia: una preghiera del VII secolo scoperta nella bara di un santo più di 900 anni fa, nonché il più vecchio libro europeo ad essere sopravvissuto intero, è stata acquistata dalla British Library per 14 milioni di dollari. Pensate un po', il libro copia manoscritta della preghiera di Giovanni detta St. Cuthbert Gospel, perché a San Giovanni Cuthbert, appunto, è stata inserita nella bara di Cuthbert nel 698 dopo Cristo e ritrovata nel 1104. È certamente uno dei libri più importanti al mondo, ha detto Scott McKendrick della British Library. Il libro è stato venduto dalla Società di Gesù, cioè i gesuiti, quindi sono più ricchi di 14 milioni di dollari e più poveri di un bel libro. Beh, vabbè, per quei piccoli sacrifici. Comunque, un bel affarino, dai. Sì, senz'altro, senz'altro. E abbiamo parlato anche di buddismo, di Buddha, e in Sri Lanka c'è Maretta. C'è Buddha. No, non c'è Buddha, però ci sono dei conflitti religiosi. La BBC riporta questa notizia che la diatriba intorno ad una moschea costruita a Dambulla rischia di rinfocolare le tensioni religiose anche in Sri Lanka, paese già sconvolto da 25 anni di guerre civili contro i ribelli tamil. Nell'isola la religione di maggioranza è il buddismo, seguita da circa il 70%, e ci sono nutrite minoranze hindu, islamiche e cristiane. Secondo i monaci buddisti, la moschea è stata infatti edificata abusivamente nel 1962 su un terreno per loro sacro. Sulla stessa area c'è anche un tempio hindu, di cui i seguaci di Buddha pretendono lo spostamento. I buddisti, compresi i religiosi, quindi i monaci, sì, hanno manifestato venerdì scorso interrompendo la preghiera nel giorno sacro ai musulmani, creando forte tensione e minacciando violenze. Il caso ha messo in allarme il governo, che probabilmente sposterà la moschea demolendo la vecchia struttura. I leader islamici però non sono d'accordo e lamentano di non essere stati interpellati. Beh, una nuova Gerusalemme sì, una una piccola, diciamo. E non si capisce tutto questo interesse per il luogo, almeno io personalmente non lo capisco. Dio è dovunque, no? Per chi ci crede, sì, o no? Sì, certo. Quindi, però, beh, sempre intolleranza religiosa legata all'Islam. In questo caso è una cosa giudiziaria. Un tribunale egiziano ha condannato al carcere uno dei comici più celebri del mondo arabo questo martedì per offese all'Islam in alcuni dei suoi film. Il caso contro Adel Imam, si chiama proprio così, Imam di cognome, e altri, ha sollevato preoccupazioni tra gli egiziani e tra i musulmani ultraconservativi, che hanno ottenuto buoni risultati nelle recenti preoccupazioni tra gli egiziani che i musulmani ultraconservativi stiano cercando di estendere le loro idee in campo religioso sull'intera nazione. I critici dicono che il trend minaccia di deprimere la fiorente industria cinematografica egiziana e la libertà di parola. Non sapevo che ci fiorente fosse industria. Infatti, però va bene, al di là degli scherzi, comunque Imam è stato condannato a 3 mesi di carcere e un'ammenda di $170 per aver insultato un Islam nei ruoli recitati in film come Il terrorista, in cui aveva interpretato un terrorista ricercato che trova rifugio nella una casa della classe media, in una famiglia moderata, e nel film Terrorismo e Kebab. Ma di che parla questo film? Lo voglio vedere. Non lo so, ma deve essere bello. Sì, senz'altro. E l'attore è stato anche dichiarato colpevole per il suo ruolo in Morgan, Ahmed Morgan, del 2007. Dei Blu Vertigo? No, però forse in collaborazione con... E in cui interpretava un uomo d'affari corrotto che cerca di comprarsi la laurea. Il film include una scena che parodizza musulmani barbuti che indossano i vestiti islamici tradizionali. Comunque, insomma, io faccio, cioè, sono solidale verso imam. Senz'altro. Perché comunque, a parte, non mi pare che fossero cose molto spinte come offese. Ma no, infatti. Poi magari comunque è satira, la satira deve avere libertà di... Sì, ma quando si tocca la religione è sempre satira di fia. Esattamente quello che stiamo facendo noi. Tra l'altro, a parentesi, però. Insomma, secondo me ci stiamo riuscendo abbastanza. Sì, no, bene, senz'altro. No? E anche qui in Italia, tra l'altro, la satira religiosa si scontra sempre con, appunto, con queste difficoltà. Ad esempio, il 25 aprile scorso, ieri praticamente, a Firenze, sono partite le polemiche per i cartelloni pubblicitari, succede spesso. Sì. L'ultima volta che una polemica a Firenze è scoppiata per questo motivo è stata per l'edizione invernale di Pitti nel gennaio 2011, in cui, diciamo, su questi manifesti un giovane si immolava simbolicamente su una croce accanto alla scritta "perdona loro perché non sanno quello che indossano" e con la didascalia "Dio salvi il Made in Italy". Adesso invece è un'azienda che commercializza impianti fotovoltaici. Il manifesto recita: "Io credo nel fotovoltaico e ci sono religiosi di fedi diverse raccolti in preghiera per promuovere l'azienda Helios con sede a Grosseto e l'energia pulita del sole". Che pagani, certo. È vero. Dio sole, sì, esatto, in un certo senso. Ci possiamo un attimo nel mondo ebraico, sempre una cosa legata alla moda. Dal Jewish Daily Forward del 23 aprile, una casa di moda danese si è scusata per una t-shirt recante una stella a 6 punte a seguito di critiche che lamentavano come essa evocasse la stella di Davide che i nazisti hanno costretto gli ebrei a indossare, che comunque è un simbolo, quindi antichissimo. Quindi, però comunque, la t-shirt gialla con un logo blu su taschina è apparsa sul sito di e-commerce Urban Outfitters la scorsa settimana. Ha scatenato una lamentela da parte della Lega Antidiffamazione, che ha sollecitato il venditore a rimuoverla dal catalogo online. Woodwood, che è il nome della casa di moda danese, ha detto che la stella era apparsa su un prototipo della t-shirt ed era già stata rimossa in seguito a precedenti lamentele. Ha affermato che Urban Outfitters ha sbagliato a mostrare il prototipo al posto del design attuale. Mi sembra una scusa un po' che regge poco, sì, e comunque non c'è granché da scusarsi. No, infatti, non c'è niente, non so chi di... è che si è sentito offeso, infatti, da questo. È molto strano. Va bene, chiudiamo sempre con una notizia invece positiva dal mondo ebraico. Con una storica decisione, la branca israeliana del giudaismo conservativo ha annunciato che la sua scuola rabbinica inizierà ad accettare gay e lesbiche come candidati per l'ordinazione. I membri della Schechter Rabbinical Seminary di Gerusalemme hanno votato il 19 aprile scorso per consentire l'iscrizione di studenti gay e lesbiche già da settembre. La decisione viene dopo anni di discordie tra i leader del movimento conservativo negli Stati Uniti, che consente già rabbini omosessuali, e i leader masorti invece in Israele, che si sono lungamente opposti. Questa è una notizia abbastanza sorprendente, secondo me. Beh, sì, è cioè un segnale... Sì, è positivo, magari. Straordinario. Però è comunque sì, sorprendente. Sono più avanti addirittura dei cattolici. Ma di molto, sì, sì. Cioè di moltissimo. Nonostante, cioè, siamo sempre tacciati di ultraconservatorismo. Sì, no, è vero, è vero. Molto bene, allora, sì, cominciamo a parlare dei terapeutisti, esatto, però dopo un brano musicale, che è quello che ha scelto il nostro ospite, Jacopo Davassi. Allora, perché hai scelto... questo, ma fondamentalmente questo brano, che mi piace sono i Coppelius, un gruppo tedesco che fanno una sorta di rock a volte metal con strumenti classici, clarinetti, contrabbassi, molto interessante, e cantano sia in tedesco che in inglese a seconda delle canzoni, e questo pezzo si chiama Composition con la K, Composition, che pronuncia, grazie. Ce lo ascoltiamo, che dici? Ma sì, in teoria sì, però non c'è qualche problema al pezzo musicale, non si sente, come mai? Eccolo, ah, ecco. si sente. Miracolo. Ci ascoltiamo la parte forse dell'introduzione. Sì, Student hat kaum Gehör und kein Talent. Zudem sieht er schäbig aus. Die Damen nehmen schnell Reißaus. Komposition, Komposition. Nur ein Kavaliersdelikt, ein Kavaliersdelikt. Vertrau auf deinen Freund. Der merkt das schon. Eccoci, eccoci qua. Sì, eccoci in onda, sono le 20.05. Questo pezzo in lingua strana. Sì, in questa lingua un po'... Che ha fatto un po' la felicità di Dragona, la nostra ascoltatrice, che è molto, come si dice, cruccofila. Sì. Bene. I Coppello sono molto famosi in Germania, vanno molto, moltissimo. Beh, ci fa piacere, infatti. Adesso saranno celebri anche in Italia. Già, assolutamente dopo... sì, dopo la nostra diffusione, nostra promozione. Potremmo quasi chiedere un contributo. Dunque, ci stanno ascoltando, ci sta ascoltando anche Paola, nostra affezionata ascoltatrice, e Francesco anche continua a ascoltarci e ci fa sapere che sta leggendo il romanzo di Herbert Dune e ci dice appunto c'è tutto in quel libro: fantascienza, fantasy, fantapolitico, economia, sociologia, filosofia e religione. Manca il sesso. Manca, no, manca no, c'è anche quella. No, però non la non l'ha detto, vabbè, però è perché sottite. No, è, effettivamente è una sesqui, si dice, sesquilogia di... Ah, quindi sesso sono, proprio. Esatto. È veramente straordinario, consigliamo a tutti gli ascoltatori la lettura di questi sei romanzi fantastici su Dune. E giocatevi anche il bellissimo videogioco degli anni 90, forse fine anni 80. Ah sì, poi c'è Dune 2, poi c'è Dune 2000 e via dicendo. Dune Nukem, eccetera. Sì, e altre bravo. Sciocchezze come queste. Esatto, poi giocatevi il 15 e il 28 sulla ruota di Bari. E con evviva, questo esatto. Evviva. Con questo possiamo fare chiudere anche il burattino. Esatto. Dunque, siamo in compagnia di Jacopo. Di Jacopo, e quindi... sì, che si è appena convertito all'agnosticismo, sì? Perché non ne poteva più delle... No, scherzo. Fondamentalmente è quello, sì. Che ecco. Non ne poteva più del fatto che la Terra è tonda. Ci fanno segno la regia strani, cosa succede? Buono. Ah buono. No, sì, lo ottimo, sentiamo. Ottimo. Voi ascoltatori e ascoltatrici lo sentite il nostro pronto, ospite? Prova. Sì, io direi sì. Di sì, no? Sì. Quindi, appunto, dicevamo di terrapiattisti. Terrapiattisti. Esatto. Terrapiattisti viene da terra piatta. Praticamente è un gruppo di signori che tiene un sito internet molto interessante. Questo sito si tratta... Si chiama... aspetta che lo cerco. Beh, comunque me lo ricordo, theflatearthsociety.org, tutto attaccato, sì. Comunque sì. Praticamente è un gruppo di persone che sostiene che la Terra sia piatta, con tanto di spiegazioni scientifiche, un forum molto interessante con tutte le discussioni, no? E la gente che dice no, cosa dite? E loro vergogna, andatevene a casa. E loro invece ribattono punto su punto in maniera scientifica, diciamo così. E questo è interessante perché non chiaramente perché la Terra è piatta o tonda, ma perché ti fa capire come è quadrata, come pensate un po' un scoop sia, diciamo, difficile verificare la forma della Terra. Ma no? Assolutamente, ma in realtà beh, qualsiasi forma, forse lo era in altri periodi, ma con satelliti non è difficile. Ma in realtà fin dalle antichità, cioè, c'è stata la consapevolezza, diciamo, del fatto che la Terra fosse rotonda. Beh, oddio, non sì, in tutte le culture. Tutte le culture, mettiamola così, però comunque è, per esempio, il discorso che nel Medioevo si credesse che la Terra era piatta è una bufala, insomma, in ambiti scientifici colti, diciamo, quindi filosofici a quel tempo si sapeva. Quindi ben prima di Colombo, dici? Sì, assolutamente. Ecco, ricordiamo anche che nel periodo del nazismo c'era una teoria di un certo Horbiger, che era uno studioso accreditato, era un studioso del Reich, che affermava che la Terra era sì rotonda, ma che noi ci trovavamo al suo interno, e quindi la concavità era nel senso inverso a quello che intendiamo la terra noi. Cava sì, la famosa terra cava, no, e era terra molto cava accreditato diverso però come teoria, che dice che la terra è cava, noi siamo all'esterno, mentre questo qui a quanto ho capito dice eravamo all'interno, sì, e che noi quindi comunque essendo molto vasto noi non percepivamo comunque la rotondità, come non la percepiamo della nostra terra, sì, e quindi infatti vedevamo a un orizzonte lì, insomma, il nulla, sì, sostanzialmente, sì, e è una teoria in effetti che non era facilmente smentibile finché non c'era un satellite, mentre adesso direi che è molto semplice fatto. E chiaramente sì, ora è semplice dirlo con i satelliti, però ho portato l'esempio dei terrapiattisti per far capire l'atteggiamento dell'agnostico, che è quello che dice: ci sono delle persone che mi dicono che la Terra è piatta, altre persone mi dicono che la Terra è rotonda, io non ho gli strumenti per verificarlo perché io non ho un satellite, no? Beh, sì, certo. Chiaramente la comunità scientifica e tutto, però questo concetto da riportare più in grande su altri... va al limite dello scetticismo. E chiaramente quindi uno mette i remi in barca e decide di non voler sapere fondamentalmente se la terra è piatta o tonda, perché tanto chissà, la vita non cambia, insomma. E fondamentalmente ecco, è questo un po' il... Giustissimo, infatti. Beh, comunque in realtà satellite è, cioè, è una cosa anche molto tecnologica, diciamo, basta un aereo e fare un piccolo tratto per rendersene conto. Ma basta molto meno, appunto, bastano delle osservazioni anche in diretta. Infatti ci sta ricordando il nostro ascoltatore Francesco che in Grecia con uno, un gnomone venne calcolata la superficie terrestre sbagliando di qualche centinaia di chilometri. No, forse era un egiziano. Sì, ma quello però era basato su un'ipotesi che la Terra fosse rotonda, non è una prova. No. Un'altra per esempio prova è che osservando una nave che va all'orizzonte si scompare, diciamo, prima lo scafo e poi la vela. Ma quello è il triangolo delle Bermude, lo sanno tutti. Chiaramente sì. Non vabbè, vedo insomma, comunque, dove sia prova. Comunque, diciamo, prima della fra virgolette prova empirica della fotografia dallo spazio c'erano altri metodi indiretti. E tra l'altro una delle obiezioni dei terrapiattisti alla prova empirica, che è quella della foto dallo spazio, è che è tutto un complotto sostanzialmente. Mi ha convinto. Come? Cioè, c'è un complotto internazionale per non far sapere alle masse che la Terra è piatta, ma poi io mi domando a che pro, cioè, per quale motivo. Non lo so, secondo me Ivo Benda di Cosmic People ne sa qualcosa. Lo conosci, sì, a proposito, Jacopo? No, perché è un tuo collega, un alienista che ha fondato anche un culto. Ha fondato un culto, però. Fratello di Malanga, credo, o il cugino. Sì. Il fratello cieco, ma cieco nel senso... Nel senso della Repubblica Ceca. Ma forse era slovacco, in realtà, non so. Benissimo, io direi di fare una pausa da questi discorsi un po' pesanti, un po' densi. Appunto, ci liberiamo un po' dello stress con questa canzone che si intitola per l'appunto Stress, dei Pain of Salvation, dall'album Entropia del 1997. Benissimo. Bentornati in studio. Dopo questo pezzo prog funk, senti là come si intrecciano tutte. Beh, insomma, tutti i generi. Lo definirei così alla fine. Sì, senz'altro. Sì, andiamo a parlare ancora di terra piatta, no? Terra piatta e appunto sostenitori moderni della terra piatta che si incrociano anche con un movimento religioso di cui parleremo sessualmente. No, non sessualmente. Allora, uno dei primi sostenitori della terra piatta fu William Carpenter, morto nel 1896, che realizzò nel 1885 un opuscolo intitolato 100 prove che la terra non è un globo, pubblicato in proprio. Una delle prove era la testimonianza riferita dagli aeronauti del tempo, però appunto aeronauti del tempo nel senso proprio del tempo, del suo tempo. Ah no, pensavo che fosse una cosa un giornale aeronauti del tempo. No, però appunto diciamo alle altezze che raggiungevano allora non era possibile ancora vedere la curvatura terrestre ad occhio nudo. Poi successe l'inventore inglese Samuel Birley Rowbotham, un nome un po' strano, che morì nel 1884 e pubblicò nel 1849 con lo pseudonimo Parallax un opuscolo intitolato Astronomia Zetetica, la Terra non è un globo. La zetetica è proprio appunto questa, diciamo, l'aspetto formale di questa teoria. E secondo il suo modello la Terra sarebbe un disco piano con il polo nord al centro e il sud costituito dalla circonferenza del cerchio. Alla morte di Sir Rowbotham i sostenitori fondarono la Universal Zetetic Society, che pubblicava una rivista intitolata The Earth Not a Globe Review e rimase attiva fino ai primi anni del XX secolo. Poi andò in declino, diciamo, questa rivista e questa society e fu sostituita dalla Flat Earth Society, appunto, fondata da un membro della Royal Astronomical Society nel 1956, Samuel Shenton, che appunto raccolse l'eredità della zetetica e però dovette confrontarsi con il programma spaziale della NASA, che negli anni 60 produsse fotografie della Terra viste dallo spazio, provandone definitivamente la forma sferica. Però Shenton Shenton commentò: è chiaro che una foto simile può ingannare un occhio esperto. In realtà, secondo Shenton, era una montatura e gli sbarchi degli astronauti sulla Luna erano una finzione cinematografica. Poi questa teoria appunto è diventata diffusissima, molto sì, sì, più della Terra piatta, è sì, nota come complottismo lunare, no? Sì, no, anche se in realtà il fatto che non che nel primo viaggio sulla Luna in realtà abbia prodotto foto fasulle è abbastanza non proprio certo. Fasulle ritoccate senz'altro, ma non comunque non originali, esatto, sì, diciamo poi così, da qui ritoccate. E poi resto, poi ci sono tanti sostenitori insomma di questo tipo di complotto. Alla morte di Shenton successe Charles Kenneth Johnson. Sotto la sua guida la società divenne un movimento che, oltre a sostenere il consueto modello di robot, raccoglieva sostenitori di pseudoscienze in genere. E su un articolo su Science Digest scrisse: l'idea di un globo rotante è una cospirazione fallace contro cui Mosè e Colombo si batterono. E nel 1995 la sede della società, della Flat Earth Society, mentre apriva le acque Mosè, esatto, si batteva per questo. Beh, probabilmente sì. E nel 1995 la sede della Society venne distrutta da un incendio, con essa tutti gli archivi. Nel 2001 Johnson morì, e però nel 2004 la Fraternity Society è tornata a essere attiva con il sito, abbiamo appunto detto, thefluttersociety.org, e ha riaperto le iscrizioni, quindi se volete iscrivervi dal 2009 ci si può iscrivere. Però comunque negli Stati Uniti d'America l'idea di Robotham venne, ecco, questo, venne accolta dalla Christian Catholic Apostolic Church. Ecco, veniamo alla novità assoluta. La Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica, gruppo religioso fondato dal predicatore scozzese John Alexander Dowie. La Chiesa stabilì nel 1895 una comunità teocratica a Zion, nell'Illinois, che nome simpatico. Zion, poi. Al suo culmine, nel 1905, la Chiesa contava 30.000 aderenti in tutto il mondo, 7.500 dei quali nella sola città di Zion. La sua rivista, The Leaves of Healing, era distribuita negli Stati Uniti, in Australia, Europa e Africa del Sud. Nel 1906 Dowie fu sostituita alla guida della comunità dal suo luogotenente Wilbur Glenn Voliva, convinto sostenitore della teoria della Terra piatta. Voliva offrì un premio di $5,000 a chiunque fosse riuscita a dimostrare la non validità del modello della Terra piatta, ma solo alle sue condizioni. Si avvalse di una radio privata per propagandare le sue idee e volle che l'astronomia zetetica fosse insegnata nella scuola della comunità. Dopo la sua morte, nel 1942, la Chiesa declinò, tuttavia fino agli anni 50 persistevano alcuni sostenitori a Zion. Ecco, questo era un po' giusto per delineare l'andamento di questa teoria nella modernità, ma non tutti sanno che Flat Earth Society è anche il nome di una band, attiva da una quindicina d'anni, che fa un jazz molto particolare. Noi ci andiamo ad ascoltare un brano torniamo con la domandona esistenziale e con i saluti, sì. Il brano è Miss Possible dall'album Answer Songs. Amici di Terza Croce Show, care amiche, qua. Sì, siamo ancora qua. Erano ricordiamo, le note dei Flat Earth Society. Ricordiamo, siamo qui con Jacopo, l'agnostico alieno. Alieno, da cui viene la parola alieno. Bravo, si vede che allora si vede che ha fatto latino. Gli studi, no? Si vedono gli studi. Dunque, allora ricordiamo i nostri contatti: testacroceshow@gmail.com e lo Skype Testa Croce Show, su cui ci state scrivendo. Anche quindi se vi ringraziamo. Ormai manca poco tempo, certo. Però appunto vi ricordiamo, perché adesso andiamo alla domanda non esistenziale della giornata, e quindi vogliamo che l'ultima, provate no, a rispondere del ciclo. È l'ultima del ciclo, sì. E da cosa è tratta? Dalle stanze di Zion, questo libro curioso, forse ne avete sentito parlare nei vostri curioso nel senso che fa incubi troppe domande. più insomma più reconti, sì, è curioso, curiosissimo, proprio è pedante quasi. Curiosity killed the cat. Diciamo qualcosina. Allora, le stanze sarebbero state composte dalla Blavatsky, dalla Madame Blavatsky, interpretando il linguaggio iconografico di un presunto manoscritto tibetano molto molto antico, il libro di Zion, non so come si pronuncia, che sarebbe servito come base sapienziale per la dottrina segreta, libro cardine della dottrina teosofica della Blavatsky. La Blavatsky descrive il manoscritto, di cui avrebbe avuto una visione diretta, come un testo antico di migliaia di anni, redatto in lingua Sanzar e conservato in un luogo segreto del Tibet. Scritto su foglie di palma, ma rese inalterabile al fuoco, all'acqua e all'aria mediante qualche processo specifico ignoto. Il libro tratterebbe della cosmogenesi e dell'evoluzione dell'uomo fino alla distruzione di Atlantide. E ecco, allora andiamo a leggere la prima stanza e del primo volume, e quindi l'inizio proprio. L'eterna genitrice, ravvolta nelle sue vesti eternamente invisibili, era rimasta sopita ancora una volta per 7 eternità. Il tempo non era, poiché giaceva addormentata nel seno infinito della durata. La mente universale non era, poiché non vi erano ahi per contenerla. Le 7 vie alla beatitudine non erano. Le grandi cause del dolore non erano, perché non vi era alcuno per produrle ed esserne preso. Solo tenebre riempivano il tutto illimitato, poiché padre, madre e figlio erano nuovamente uno, ed il figlio non si era ancora destato per la nuova ruota e per il suo pellegrinaggio su di essa. I 7 sublimi signori e le 7 verità avevano cessato di essere, e l'universo, figlio della necessità, era immerso in paranishpanna, pronto ad essere esalato da ciò che è e tuttavia non è. Nulla era. Le cause dell'esistenza erano state abolite. Il visibile che fu e l'invisibile che è riposavano nell'eterno non essere, l'essere uno. Sola, l'unica forma di esistenza si stendeva illimitata, infinita, incausata, nel sonno senza sogni, e la vita pulsava inconscia nello spazio universale, attraverso quella onnipresenza che è percepita dall'occhio aperto di Dhangma. Ma dov'era Dhangma quando Alaya dell'universo era in Paramartha e la grande ruota era Anupadaka? Ma ecco, non è questa la domanda però che voglio fare. Però era più bella. Però quasi quasi ci metto anche questa. Ecco, dov'era Dhangma quando Alaya dell'universo era in Paramartha e la grande ruota era Anupadaka? Anche questo è una bella domanda. E in alternativa, se c'è una domanda, quella di riserva, quella per i porci, appunto. Ovvero, l'universo è infinito e se non lo è, cosa c'è al suo confine? Quindi una di quelle classiche domande proprio che ci si fanno da bambini, no? La facciamo subito a Jacopo. Cosa ne pensi? Oppure se vuoi puoi rispondere anche all'altra. Sì, sì, infatti. No, io risponderei alla seconda e risponderei in maniera coerente con il mio pensiero, che fondamentalmente non lo so e fondamentalmente anche inutile saperlo e rispondere alla domanda se l'universo è finito o meno. Benissimo, non lo so. Quindi, e non mi interessa. Non mi interessa dove era Dhangma. Sembra una storia stramba, ma tutto questo è Dhangma. Ecco, e su questo io chiuderei la puntata di oggi in bellezza. Insomma, non no, lo so. Ma secondo me sì. Vabbè. Cari amici e cari amiche, ma se facciamo qualche segnalazioncina, ma un paio velocissime. Un paio, giusto due. Dunque, allora vi segnalo allora il Vegan Fest, che ci sarà dal 27 aprile al 1 maggio. Si parlerà ovviamente di cultura vegana, conferenze culinarie, corsi anche su temi ambientalisti, salute e anche spiritualità. Ci saranno corsi di yoga, Falun Gong, terapia del suono, biodanza, eccetera. www.veganfest.it per il programma completo. E poi vi segnalo anche la Primavera della Scienza dal 12 aprile al 14 giugno 2012 a Livorno. E va bene, sì, ci saranno tantissime conferenze, vi consiglio di cercarvi il programma, digitate Primavera della Scienza 2012 Livorno e lo trovate. Ci sono tantissimi appuntamenti, conferenze, anche cose pratiche, visione delle stelle, quindi insomma potrebbe essere molto interessante. Sì, e purtroppo il Comune di Livorno quest'anno ha dato zero, diciamolo, denunciamolo, zero finanziamenti per la Primavera della Scienza, a differenza che in anni scorsi. Sì, sì. Comunque, se invece avete voglia di farvi due passeggiate su carboni ardenti, andate a Dozza Imolese in Emilia Romagna, in provincia di Bologna, il 1 maggio, appunto per imparare a conoscere e valorizzare se stessi si cammina sul fuoco. Per info e iscrizioni il sito è www.blessyou.me. E al termine una bella bracciata. Bravo. Abbiamo una risposta già in diretta. Tiro del rasoio. Esatto. L'universo è finito e al di là c'è un ristorante. Dhangma è in quel ristorante. Io forse ci vado se ce la faccio. Questo è Francesco. E poi ha concluso, parlavo del Vegan Fest. Va bene, grazie a Francesco, grazie a Paolo. parola, grazie a tutti voi, grazie a Jacopo Davassi che è stato con noi coraggiosamente. Grazie questa... a voi dell'ospitalità. Se vuoi prego, salutare, prego, se vuoi... puoi tornare. Salve a tutti, tornerò molto volentieri quando mi inviterete di nuovo. Benissimo. Tra qualche mese non ci saremo e quindi ti inviteremo volentieri. Interessantissima, vi ascolto sempre con tanto affetto e mi fate sentire l'aria di grazie casa. Questo ce lo dirai dopo. Grazie di essere venuto qui da Berlino, un lungo viaggio. E ringraziamo anche Fede, il nostro tecnico. Ringraziamo audio. Fede, naturalmente, dopo di noi Renato Peghen. No, sì. Sì, certo, come sempre. E noi torniamo settimana prossima con ospite un rappresentante della comunità dei mormoni. Benissimo. Quindi sapremo tutto su Mitt Romney finalmente. Già, è giusto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.